Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Meris, bentornati a Smart City. Questa sera continuiamo a parlare del progetto europeo ePolicy, una complessa piattaforma informatica sviluppata allo scopo di fornire alla politica strumenti per prendere decisioni sempre più informate. Come abbiamo visto ieri, ePolicy è focalizzata sulla politica energetica. Per esempio, permette di calcolare gli effetti dell'adozione di un incentivo piuttosto che un altro. Ed è stata messa a punto utilizzando come prototipo la regione Emilia-Romagna, ma la sua valenza è generale. L'obiettivo di fondo, infatti, di questo progetto europeo è di arrivare a simulazioni sempre più sofisticate e realistiche del comportamento della società. Tra gli ingredienti di questa piattaforma ce ne sono due di grande fascino di cui vi voglio parlare questa sera, sempre con l'aiuto della coordinatrice del progetto, la professoressa Michela Milano dell'Università di Bologna. Buonasera, professoressa, bentornata. Buonasera a tutti. Allora, il primo di questi ingredienti, dicevo, di grande fascino è il simulatore sociale. Che cos'è? Allora, diciamo, un simulatore sociale è uno strumento che è composto, diciamo, da tante entità che sono, diciamo, degli agenti, delle entità decisionali autonome che sostanzialmente devono in qualche modo interagire con gli altri e avere le proprie conoscenze, le proprie ambizioni, le proprie velleità, diciamo, e abbiamo cercato di riprodurre all'interno di ciascun agente il meccanismo decisionale con cui le persone decidono rispetto a, per esempio, l'adozione di una determinata tecnologia verde. Perfetto, quindi per esempio per simulare che cosa sarebbe successo nella società emiliano-romagnola a fronte a un certo numero di incentivi, voi avete popolato una, diciamo, regione virtuale da tanti esserini virtuali, esatto. Più o meno uno ogni 25 nuclei familiari, ho capito, esatto. Quindi siccome sono 4 milioni e mezzo, quanti sono gli abitanti dell'Emilia Romagna? Circa, sì. Ecco, stiamo parlando almeno di 45.000 entità virtuali, sì, che in questo campo di gioco, anche lui virtuale, hanno interagito fra di loro, potremmo metterla così. Ecco, che cosa distingue questi esserini l'uno dall'altro? Sì, allora, diciamo, ovviamente il modello decisionale su cui sono basati questi agenti, ovviamente raggruppati in classi, in gruppi, diciamo, da uno rispetto all'altro cambia, per esempio, il fatto, non so, la sensibilità ambientale. Se un gruppo di agenti è più sensibile rispetto a questioni ambientali di un altro, sarà anche più incline ad adottare, ad esempio, certo, tecnologie verdi. Un altro caso cambia, per esempio, la fiducia che possono avere nel governo e nel fatto che gli incentivi vengano forniti per 20 anni, certo, a fronte di adozione, appunto, di impianti di energia da fonti rinnovabili. Ci sono dei meccanismi, ovviamente, di emulazione di altri agenti, quindi se tutti i miei vicini hanno una determinata tecnologia, chiaramente sono più incline ad adottarla anch'io. Certo. Ecco, e naturalmente voi avete tenuto conto solo di alcuni aspetti che erano utili a risolvere il problema della progettazione degli incentivi, quindi non avete tenuto conto di tutta una serie di altre caratteristiche, penso al peso, l'altezza, o piuttosto che l'istruzione o cose, ma allargando mano a mano, rendendo sempre più sofisticati questi agenti, si riesce a fare una simulazione sempre più sofisticata della realtà, è un po', sì, questo, no? Potenzialmente il concetto, sì. Ecco, l'altro ingrediente invece qual è? L'altro ingrediente particolare? Sì, l'altro ingrediente in particolare è quello dell'opinion mining, nel senso che noi cerchiamo di estrarre automaticamente dalla rete, da internet, delle opinioni delle persone su determinate tematiche politiche. Fate dei sondaggi praticamente, diciamo così, d'opinione. Un sondaggio, sì, non direttamente. Certo, ecco, senza porre una domanda, sì. Sulla rete, sui blog, sui forum, anche sui social network, queste informazioni sono pubbliche e noi le andiamo a prelevare, e in ciascuna di queste informazioni, di questi post, dobbiamo capire non solo l'argomento di cui si parla, ma anche se esprime un'opinione su questo argomento. E in quel caso volete anche sapere che opinione esprimono. Certamente, se l'opinione è positiva, negativa, neutra, diciamo, poi abbiamo qualche livello di gradazione, ecco. Quindi si sceglie un determinato argomento, per esempio, che cosa si dice intorno al tema delle biomasse, le centrali a biomassa, e voi siete in grado scelto questo argomento di capire se le opinioni sono più orientate positivamente o negativamente su, esatto, su quell'argomento lì. Esattamente, e lo facciamo ovviamente nel tempo, perché chiaramente le situazioni al contorno cambiano, possono accadere anche eventi che dirottano l'opinione pubblica da una parte o dall'altra, e noi cerchiamo appunto di percepire questi trend. Soprattutto i trend, certo, che sono rilevanti. Soprattutto se sta cambiando l'atteggiamento, per esempio, dell'opinione pubblica. Esatto. Grazie bene, professoressa Milano. Grazie a lei, grazie a tutti, arrivederci. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.